scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri e della cultura, gli incontri di Voci in Scena. L'intervista di oggi è di Elisabetta Fiorito. Una vocalità duttile e autorevole, sorretta da una tecnica di canto solida e raffinata, il suo fraseggio sfumato e le elevate capacità di interprete le consentono di affrontare un vasto repertorio di opere. Amarilli Nizza, classe 1971, è la protagonista dell'Arena di Verona 2014. Quest'anno, anche grazie alla notevole presenza scenica, interpreterà Aida e Madama Butterfly. Inizia a cantare giovanissima e dal 2002 sono stati conferiti numerosi premi, oltre all'affermazione nei più prestigiosi teatri e festival operistici internazionali, quale soprano tra i più applauditi della sua generazione. Ha interpretato i grandi ruoli della produzione lirica verdiana e pucciniana, ma anche Pagliacci di Leoncavallo, Carmen di Bizet, Don Giovanni e Le nozze di Figaro di Mozart. Ha lavorato con grandi maestri come Zubin Mehta e Daniel Oren e ha collaborato con registi del calibro di Franco Zeffirelli e Pier Allì. Amarilli Nizza, uno dei grandi soprani italiani, quando ha iniziato a cantare e come si scopre a un certo punto che una persona ha questo talento, queste caratteristiche per essere una voce soprano? Ma in realtà ho cominciato a cantare molto presto, perché mia nonna, che è stata anche la mia insegnante di musica, insomma di canto e pianoforte, per tutto questo percorso aveva appunto una scuola in casa alla quale mi sono approcciata molto presto, perché assistevo a tutte le lezioni che faceva i cantanti. Ho cominciato da piccolina con il pianoforte e già a 14 anni diciamo che ero in un coro amatoriale che lei seguiva, e già a 15 ho cominciato a prendere le prime lezioni di canto serie. Quindi insomma è un percorso che è iniziato presto. A 17 ero già finalista al concorso Cilea di Reggio Calabria, a 20 anni ho vinto il concorso Battistini, quindi tutto è iniziato molto presto, perché comunque in casa questa tradizione c'era e c'era già da tanto, perché la mia trisnonna è stata Medea May Figner, la musa di Tchaikovsky, una delle più grandi cantanti italiane, che ha ottenuto uno dei più grandi successi internazionali a cavallo di un secolo, dal 1854 al 1950 circa. E quindi insomma questa grandissima tradizione di famiglia si è fatta sentire. Io amavo la lirica fin da piccolina, mi sono avvicinata in maniera molto naturale, senza forzature, è partito proprio da me questo desiderio di far parte di questo mondo. Quindi si può dire che lei è una nipote d'arte, forse lo sospettavano perché le hanno messo anche questo nome particolare, Amarilli, che deriva dal greco, vuol dire splendida, lo usava Virgilio, quindi insomma le avevano già messo un nome d'arte, no? Mi avevano un po' marchiata, insomma. Però poi no. La dote ce la deve avere, perché non è che tutti si possono improvvisare soprano, la voce infatti, ci deve essere, no? Infatti la dote poi non sapevo neanche in realtà c'era o meno, la passione c'era sicuramente, poi il dubbio di non poterlo fare si è insinuato. Infatti ho fatto il liceo, ho fatto l'università, ho fatto tutte strade parallele, perché se poi non fossi riuscita chiaramente dovevo fare qualcosa nella vita, per cui il sogno c'era, non c'era la certezza di poterlo realizzare. Poi quando ho visto che la cosa si faceva possibile, chiaramente ho insistito su quella strada, studiando sempre di più e dedicandomi completamente a questo. Andiamo invece a quello che sta succedendo all'Arena di Verona, perché lei addirittura interpreta due ruoli, fa Aida in Aida e poi Madama Butterfly per quanto riguarda l'opera di Puccini, quindi Verdi e Puccini sono anche abbastanza impegnativi. Che cosa è successo? Come mai a un certo punto è nata questa idea di farle fare ben due ruoli all'interno di uno stesso festival e ben due ruoli da protagonista poi? Ma in realtà non è la prima volta, questo è il decimo anno consecutivo che io partecipo al Festival dell'Arena di Verona e sono 10 anni consecutivi che porto in scena Aida, l'ho fatta un po' in tutte le regie possibili, diciamo, del festival. E poi è capitato anche in altre stagioni che io avessi l'opportunità di interpretare due titoli diversi. L'anno scorso ho fatto Aida Nabucco insieme a Ingo, nel 2006 ho fatto Aida e Pagliacci, nel 2012 ho fatto addirittura tre ruoli perché ho partecipato ad Aida, a Turandot e a Carmen, quindi non è la prima volta che ho questa fortuna, diciamo, di potermi esibire su questo palco con ruoli diversi. Sicuramente questi sono i due ruoli che io ho fatto di più nella mia carriera, perché con Butterfly ho debuttato, con Aida appunto sono tantissimi anni e tantissimi festival che siamo appaiate, quindi numericamente sono di sicuro i ruoli nei quali ho maggiore esperienza, perché ho avuto l'opportunità di interpretarli proprio tante tante volte, e poi sono due ruoli che amo tantissimo, quindi insomma sono profondamente grata di poterli portare in scena contemporaneamente e soprattutto in queste due grandissime produzioni, una più bella dell'altra. Ma c'è tra Aida e Madama Butterfly l'eroina che ama di più, perché sono un pochettino, oppure tra Verdi e Puccini, lo so che è uno scontro tra titani, però magari lei diceva, no, non lo vuole dire. È uno scontro tra titani, in effetti, devo dire che il cuore mi porta un po' più verso Puccini per il semplice motivo che è un autore così passionale, così femminile, no? Che risveglia tutti i nostri sentimenti di mamme, di innamorate, di donne gelose, quindi è di sicuro un autore che sento tanto vicino. E Verdi, ho interpretato credo 16 titoli verdiani già, per cui lo sento altrettanto nelle mie corde. Di sicuro sono molto diversi, perché Verdi richiede un grande approccio tecnico, quindi di solidità proprio tecnico della linea di canto, e mentre Puccini forse presuppone più doti di attrice, di interprete, no? Di proprio comunicazione del sentimento, quindi hanno questa particolarità di essere tutti e due sublimi loro, ma profondamente diversi proprio nell'approccio anche stilistico ed emotivo, perché mentre non ci si può lasciare molto andare alle emozioni, in Verdi bisogna sorvegliare il canto un po' tutto il tempo e quindi ci si può lasciare andare un po' meno, e sono due grandi banchi di prova, perché poi sia Aida che Butterfly sono due ruoli molto lunghi. Questa Aida che si mette in scena all'Arena di Verona e che è in scena all'Arena di Verona è praticamente un'Aida storica nell'edizione del 1913. È diretta da un giovanissimo talento, Daniele Rustioni, che è un direttore d'orchestra di appena 31 anni, e è poi interpretata da lei, che sicuramente non è una persona anziana, appunto abbiamo detto classe 1971. E quali sono le caratteristiche di questa edizione storica del 1913? Beh, questa edizione è il massimo della tradizione, tutto ciò che uno spettatore si aspetta da Aida, quindi ci sono delle scenografie meravigliose, imponenti, assolutamente fedeli al libretto, quindi insomma c'è lo sfarzo che ogni spettatore si aspetta, ci sono queste grandissime scene corali, c'è il balletto, ci sono anche i cavalli in scena, costumi che riproducono ed evocano le giuste atmosfere, e anche questi molto ricchi e sfarzosi, quindi diciamo che è proprio l'Aida quella che ognuno immagina, e venendo qui la trova, no? Tante comparse, tanti ballerini, tanto coro, è tutto molto pieno sul palcoscenico, e momenti comunque intimistici del terzo e quarto atto rimangono, sono molto belli anche questi, ci sono veramente credo, le scenografie più amate, no? in genere, perché sono assolutamente fedeli proprio a quello che Verdi voleva, e quindi questo è anche un po' di conforto, no? Magari per uno spettatore non abituato alla lirica, non melomane, che quindi si approccia per la prima volta all'Arena e sicuramente trova una tradizione di altissimo livello e di grande gusto, soprattutto molto elegante. Allora ringraziamo Amarilli Nizza, soprano protagonista dell'Arena di Verona di quest'anno, che interpreterà, abbiamo sentito, Aida e Madama Butterfly. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. L'appuntamento è domani alla stessa ora.